con Il Tempo Stinge, il nuovo spettacolo di Davide Grillo a Roma, allo Spin Time Labs, 18 aprile 2019. Davide, un abbraccio, un in bocca al lupo e ci si vede presto. Un abbraccio grandissimi, grazie mille, ciao. Un abbraccio grande, ciao. Con il nostro Simone Nebbia di Teatro e Critica per parlare della settimana teatrale, dopo gli ospiti che abbiamo sentito telefonicamente, c'è lui. Ciao Simone. Buon pomeriggio a tutti quanti. Dici. Eccoci. Allora dunque, andiamo un po' a scandagliare questa corta settimana teatrale, perché tutto sommato con la Pasqua di mezzo, sì, insomma, si va a teatro, molti partono. Chissà poi chi resterà da queste parti a Roma, ma chi rimane si andrà a vedere un po' di cose. Intanto segnalo che al Teatro della Cometa, l'abbiamo girato, però arriva questo testo che è andato in scena per la prima volta nel 1986 ed è il testo più famoso di Annibale l'Uccello, firmato Ferdinando, è chiamato Ferdinando, la regia è di Nadia Baldi ed è uno spettacolo che sta in scena fino al 21 di aprile, da questa sera, dal 16 fino al 21 aprile. Ci saranno Chiara Baffi, Fulvio Causeruccio, attori insomma che conosciamo, ed è uno spettacolo appunto ormai piuttosto noto perché è un testo ormai diventato un classico del contemporaneo. Dunque, poi andiamo invece a dire che ovviamente resta in scena Un nemico del popolo con Massimo Popolizio fino al 28 di aprile, mi appresto anche ad intervistarlo in questi giorni, così che ne possiamo sapere un po' di più. E ti dico poi che questi sono i giorni in cui sta iniziando anche Grandi Pianure, che è il focus di danza che andrà avanti fino a settembre, curato dal Teatro di Roma con la direzione artistica di Michele Di Stefano di MK, che ricordiamo è un leone d'argento alla carriera per la Biennale di Venezia, Biennale Danza, quindi un autorevolissimo rappresentante della danza internazionale. È cominciato con Avalanche di Marco D'Agostin la scorsa settimana, quindi è stato presentato, e voglio solo ricordare che andremo a vedere un po' di danza fino ai primi di settembre al Teatro di Roma in vari spazi che vedremo volta per volta. È importante questa apertura alla danza, insomma Roma ha abbastanza bisogno di questo passaggio nella coreografia. Ancora il Teatro di Roma, per segnalare un'altra attività, ovvero sia la mostra che ha aperto al Teatro Valle alle vicine dei 100 anni della prima dei 6 personaggi in cerca d'autore, fanno la scena proprio al Teatro Valle nel 1921, c'è questa mostra che si chiama Manicomio Manicomio, sarà fino al 2 giugno negli spazi del Teatro Valle, per andare a vedere un po' che cosa andrà poi a ripercorrere la storia di uno dei testi più emblematici del Novecento, insomma un testo che ha reso Pirandello un classico, beh non è il solo chiaramente ad averlo reso tale, ma sicuramente un testo storico che si occupa delle molteplici verità del teatro e quindi tutto sommato un po' dell'essenza stessa del teatro. Fino al 2 giugno, Manicomio, Manicomio, gridato, urlato, al Teatro Valle di Roma. Ci saranno quindi poi insomma delle varie attività che sul sito del Teatro di Roma sono abbastanza ben spiegate, però saranno appunto delle settimane, mesi successivi. Allora, per ciò che riguarda invece, ancora al Teatro di Roma, perché ci sono attività anche attorno a Un nemico del popolo di Massimo Popolizio, che appunto è in scena, ma andremo a vedere un po' di appuntamenti extra. Tra poco alle 18.30, sempre nel foyer del Valle con Antonio Audino, si andrà alla ricerca del rapporto tra Ibsen e Edvard Munch, il pittore, intrecci e suggestioni tra vita e arte, quindi un rapporto tra il drammaturgo e il pittore, e attraversate appunto la nostra collega Antonio Aurino di Radio Rai 3. Mentre invece domani ancora un'altra attività sarà la proiezione di Un nemico del popolo, di l'adattamento cinematografico del 1978 firmato da George Schaeffer, che sarà proiettato alle ore 21 in sala Squarcina mercoledì 17 domani. Queste sono un po' le attività di questa settimana attorno al Nemico del Popolo, e vi segnalo invece che proprio al Teatro di Roma all'Argentina il 18 aprile, giovedì, verrà presentato un volume dedicato a Luca Ronconi da Giovanni Agosti, è appena uscito per Feltrinelli, si chiama Luca Ronconi, prove di autobiografia, alle ore 20 appunto al Teatro Argentina interverranno lo stesso Polizio, Emanuele Trevi, direttore Giorgio Barberi Corsetti, Maria Grazia Gregori e lo stesso autore con Roberta Carlotto, quindi il 18 aprile andremo anche a vedere questo fare dedica a Luca Ronconi, grande regista scomparso che tanto ci manca. E invece andiamo al Teatro Torlonia per vedere l'apertura di questo Focus Bolagno, che sarà appunto in scena e sarà con tre appuntamenti fino alla metà di maggio, e questa sera si inizierà alle ore 20 con La linea spezzata dalla tempesta, una lettura scenica di Pippo Di Marca, appunto dedicata al grande regista cileno, che allude all'impossibilità di individuare il senso ultimo della poesia, di inabissarsi nelle sue misteriose profondità e uscirne vivi, e tuttavia allude anche alla necessità, al coraggio di non smettere mai di cercarla. Quindi questo è un po' il Bolagno di Pippo Di Marca, lo andremo a vedere questa sera alle ore 20 al Teatro Torlonia. Dunque, cos'altro vi posso portare? Andiamo a vedere quello che c'è questa settimana. Sicuramente domani, domani 17-18, allo Spazio Diamante, La Classe, un lavoro all'interno degli classici del secolo futuro, curato da Marco Cavalcoli e Katia Infaso, ed è con gli allievi dell'Accademia Stato Brancaccio, appunto, di cui fa parte lo Spazio Diamante. Abbiamo già detto di Davide Grillo al Spin Time Labs giovedì 18 con il suo nuovo lavoro, mentre invece andiamo anche a The Fruits 16 da questa sera fino al 28 di aprile, Carlotta Proietti e Gianluigi Fogacci, quest'ultimo anche alla regia per questo testo di Anthony Nilsson, una strana coppia si presenta sul palcoscenico di un teatro per inscenare o vivere il suo dramma di coppia, come una seduta terapeutica collettiva. Questo è quello che andremo a vedere nello spazio di Via Giulia Off of Theater fino al 28 di aprile. Direi che l'ultima cosa di cui ti posso parlare è invece quella del Teatro Vascello, dove andremo a vedere fino al 18 aprile, questa sera, la replica è andata a scena Cagliari, Se lo sporchi al mio pavimento, un melò con di Giuliano Scarpinato, che lo firma insieme a Gioia Salvatori. È uno spettacolo molto interessante che io ho visto su una storia molto particolare di un ragazzo con di una storia omosessuale, di un rapporto omosessuale di un ragazzo con un uomo più grande, che insomma non va a finire proprio benissimo. Quindi invito a vederlo perché è davvero un lavoro molto intrigante, fino al 18 aprile al Teatro Vascello. E questo, Federico, è tutto. Un abbraccio, Simone, a presto. Ciao a tutti. Questo è lo spazio dedicato al teatro su Radio Onda Rossa, il martedì alle ore 14, con interviste su spettacoli, festival e rassegne in corso. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.